Ancora sul 144, inteso come prefisso telefonico, due novità. La prima consiste in una nuova applicazione del noto impulso che potremmo chiamare del salire sul carro dei vincitori. È l'impulso che ha favorito l'invenzione dei sondaggi di qualsiasi tipo, sondaggi preelettorali inclusi. Si dice che il tale sta vincendo per far sì che i suoi voti aumentino. Si affida alla geniale intuizione che vorrebbe l'uomo una bestia, direi anche la più ebete del creato. Funziona, dicono che funziona, tanto è vero che chi fa sondaggi è ricco e tanto è vero che hanno perfino escogitato una specie di legge per proibirli nei giorni immediatamente antecedenti i giorni delle elezioni. Oggi come oggi, per esempio, siamo già in periodo di proibizione. Il risultato è quello, credo, che circoleranno sondaggi clandestini di borsa nera per gli indecisi fino all'ultimo, no? Che proprio non vogliono sbagliare carro. I difetti dei sondaggi comunque sono ben noti. Gli intervistati possono essere dei bugiardi, come il sottoscritto che ha imparato a combattere il regime rispondendo sempre il contrario di quel che pensa ogni volta che lo intervistano per telefono, o cambiare idea, per esempio, all'ultimo momento, o sbagliarsi in cabina elettorale, oppure la domanda stessa può, perché no, risultare ingannevole. Il nuovo servizio del 144 consente di salire sul carro del vincitore a colpo sicuro, emendandosi dai difetti dei sondaggi. Al 144 11 45 40 risponde infatti un servizio innovativo praticamente inoppugnabile. Scantona dalla legge antisondaggi, si chiama voto magia, e rivela, per la modica si fa per dire somma di lire 2540 più IVA al minuto, rivela il destino dei politici. Quel destino che a chiare lettere è scritto nelle stelle, non sulle stelle perché allora sarebbe roba da astronomi, ma nelle stelle perché così è roba da astrologi. Neppure in questo caso io pagherò le 2540 lire più IVA per godermi poi il confronto il 29 marzo prossimo fra il prima della cura e il dopo la cura, ma prendo per buoni gli assunti, diciamo così, epistemologici della cosa. Il sapere astrale è sapere sicuro. La gente può essere bugiarda quanto vuole, può capire male la domanda, può sbagliarsi nel votare quanto vuole, che non ci sono santi. Quel che è scritto nelle stelle oggi resta scritto anche domani, a meno che Berlusconi o chi per lui non si siano impossessati anche di quel network. La seconda novità conferma un andazzo. Nel pacciugo mercantile che contrassegna questi nostri immondi e ultimi anni, ultimi nel senso che è difficile credere che ce ne saranno ancora molti, ci sono già stati i giornali che parlano dei giornali, le televisioni che parlano delle televisioni, che devono parlare, le mani che disegnano se stesse, i cervelli che pensano se stessi, le menti che pensano se stesse. Insomma, l'autoreferenzialità, in altre parole, è diventata di moda e, merceologicamente parlando, rende. Così, meraviglia delle meraviglie, al 144 11 43 34 finalmente viene fornita come servizio a lire 2540 più IVA al minuto la risposta alla domanda: che cos'è il 144? Il telefono, insomma, si morde la coda. Telefono al 144 per sapere che cos'è il 144. Io spero che presto inventino un marchingegno per fotografarne l'utente. Tutto materiale utilissimo ai neolombrosiani di domani.